Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro a un balloon. Che mondo sarà se ha bisogno di chiamare Superman? Che mondo sarà, fa l'effetto del motore che non va? E benvenuti anche a questa puntata del Fumetto a Sinistra, un mondo dentro i balloon. Riprendiamo l'intervista che la volta scorsa abbiamo mandato nella sua prima parte con Paola Palottino, che è uno dei massimi esperti, se non il massimo, in Italia di illustrazione, in particolare illustrazione per ragazzi. L'altra volta la Paola Palottino al microfono di Morena Moretti ci ha fatto conoscere due importanti donne che lavoravano nella redazione del Pioniere di Gianni Rodari. Oggi troviamo altri due nomi che penso vadano assolutamente ricordati, perché questo universo femminile, abbiamo già visto, è stato ampiamente misconosciuto nella storiografia del Pioniere. Il gigante e la bambina sotto il sole contro il vento, in un giorno senza tempo, camminavano tra i sassi, camminavano tra i sassi, camminavano tra i sassi. Gigante un giardiniere, la bambina è come un fiore che mi stringe forte il cuore con le tenere radici, con le tenere radici, con le tenere radici. Sconosciutissima, ma di cui ho carpito qua e là tutta una serie di notizie, è Graziella Urbinati, che pare nata nel 1927, ma non si sa nient'altro, pittrice, illustratrice e costumista cinematografica. Anche lei, vedi questo dato del legame, tutte hanno avuto a che fare col cinema. È moglie di Lorenzo Vespignani, Vespignani la ritrarrà in un bellissimo disegno del 48, e insieme al marito, insieme a Marcello Muccini, Graziella Urbinati farà parte del gruppo dei pittori di Portonaccio, che era un gruppo diciamo neorealista, che poi si trasferirà parzialmente a Sant'Arcangelo con la denominazione di Circolo del Giudizio. È di quel periodo, si ricordano delle sue splendide acqueforti acrobata e ballerina, e una sua Set Woman, che evoca soluzioni a Egon Schiele, che appare alla mostra Pastimes in Prince del 1993 al MoMA di New York, ed è bellissima questa immagine, con questi corpi studiati, aggrediti quasi chirurgicamente da Atlante di immagini mediche. E nel 1953 Graziella Urbinati esordisce sul Pioniere, dove illustra novelle e racconti con vignette che in qualche modo riassumono l'esperienza neorealista. Anche lei, come dicevo, collabora come costumista ai film Uomini e Lupi di De Sanctis nel 1956, La Spada e la Croce di Ludovico Bragaglia nel 1958, I Magliari di Rosi nel 1959, Vento del Sud, dove sarà anche scenografa, per Provenzal nel 59, L'assassino di Elio Petri, Laura Nuda, I giorni contati, La guerra continua fino al 62. Risulta, e io ho potuto vederlo, ma purtroppo non lo possiedo, un bellissimo libro intitolato Gli italiani a tavola di Felice Cunsolo del 1959, con 18 splendide tavole, diciamo, vogliamo chiamarle post-neorealiste, dato il periodo. Ecco, questo è tutto quello che io sono riuscito a mettere insieme su questa Graziella Urbinati, che certamente è stata una personalità di spicco e una mano strepitosa nella figura. E arriviamo a Rita Termes. Rita Termes è una sarda, è una pittrice di origine sarda, Cagliari 1923-2006, viene a Roma nell'immediato dopoguerra insieme a Emilio Lusso, tra tra l'altro pare che nella casa di lusso che viene descritta alla sua morte era conservato un paesaggio della Rumungia di Rita Termes. Nel 52 esordisce sul Pioniere con figure, lei è una potente visionaria, veramente ha un taglio forte, primitivo, e queste figure di una plasticità solida, lei crea una serie di vignette per illustrare appuntate Piccoli vagabondi di Gianni Rodari, che poi verrà raccolto in volume, e in seguito si misura addirittura con le pagine a vignette, e nel 55 in 8 puntate crea questa stravagante e surreale storia di Ciccio e Chicco Mentino. Questo Chicco Mentino sarebbe un asino che prende vita, che era una piccola scultura, è un fiabesco asinello verde, e anche qui la storia è che io penso che abbia scritto lei, la storia è una storia tutta dalla parte degli umili, dei deboli, dei sopraffatti, eccetera, e di sbeffeggiamento del padrone dalle belle braghe bianche e così di ogni sopraffazione. E queste vignette sono tutte colorate, è proprio una pagina a colori, sono tutte colorate e molto forti e graziosi insieme. Nella seconda metà degli anni 50 collabora come illustratrice alla rivista Lavoro, risulta, suo fratello Giovanni pure era pittore, risulta di aver realizzato manifesti con questo fratello Giovanni. Io ne ho visto uno solo, contro la disoccupazione, contro la miseria, che era molto, molto didascalico e poco esteticamente, insomma, poco interessante. Mentre invece nel 59 partecipa all'ottava quadriennale romana, dove presenta l'opera Pescatore, e nel 65 alla nona quadriennale, dove presenta dei dipinti di una potenza quasi primitiva, Filiazione del vivente, L'uno e il molteplice, Capriccio. In seguito esporrà alla Galleria L'Obelisco di Roma, e nel 64 realizza perfino una copertina per un'edizione della Tosca diretta da Von Karajan per l'RCA. Alla metà degli anni 90 Rita Termes torna a vivere in Sardegna, dove una serie di sue opere sono conservate alla Galleria Comunale d'Arte di Cagliari, e io ho visto la riproduzione di un coro a tre voci, un quadro poderoso e sintetico fino all'astrazione, il che ci dimostra che intanto tutte queste quattro donne citate che hanno lavorato al Pioniere veramente erano tutte delle artiste indubitabilmente, ognuna in una direzione, forse la meno forte è proprio la prima, Flora Capponi, che è più calligrafica, eccetera, ma certamente sia la Mafai, che la Urbinati e soprattutto Rita Termes sono delle pittrici di straordinaria potenza. Sì, vere artiste tutto tondo, diciamo, in tantissimi campi, quindi dal cinema, scenografia, pittura, esploravano mondi diversi. Quando lavoravano per il Pioniere, quindi per i ragazzi, quindi le loro illustrazioni erano comunque calibrate sul pubblico a cui sarebbero state. Diciamo che erano illustrazioni, anche perché così c'è una vulgata per cui si pensa sempre che ai bambini e ai giovinetti si devono dare delle cose meno complicate, più semplici, eccetera, per cui in qualche modo un po' obbligate, tra virgolette. È la Termes forse quella che più riesce a rimanere personale nella sua collaborazione al Pioniere. Bene Paola, per chiudere io ti chiederei qualcosa, di darci qualche informazione sul tuo nuovo enorme lavoro. È un grande lavoro e anche un lavoro molto importante per tutti, perché stai raccogliendo praticamente biografie e storie di tutte le illustratrici dal 600, mi dicevi. 600, sì. Allora, diciamo che questa è una delle avventure più affascinanti della mia vita. Sono 20 anni che ci sto dietro, vabbè, ci sto dietro poi facendo altre cose, e avevo cominciato a radunare tutti i nomi delle illustratrici italiane, ma proprio tutti, tutti, tutti, tutti, anche di quelle che solo occasionalmente hanno illustrato, tutte quelle che comunque hanno pubblicato e che comunque si sono distinte nell'ambito dell'immagine riprodotta. Non mi interessava il quadro, non mi interessava il disegnino, mi interessava il lavoro fatto per la riproduzione, per cui illustrazioni su libri e giornali, caricature, fumetti, che posso dire cartellonismo, cartoline, tutto quello che è apparso di mano femminile nell'universo del visivo. Allora, questo lavoro che avevo cominciato a fare limitatamente a partire dagli anni 30 del Novecento, doveva però trovare un suo ancoraggio, andare fino in fondo a vedere quando cominciava il contributo femminile, per cui sono dovuta tornare all'indietro, tanto che per esprimere la creatività femminile nel Medioevo, dove queste povere creature avevano la cintura di castità al cervello, ossia erano impossibilitate a fare alcunché, per cui quando sento lo sciocchezzaio del non c'è il Mozart donna, non c'è Michelangelo donna, vorrei spiegare che un ritardo di qualche cosa come 5 secoli spiega molto bene la situazione. E dunque loro come si esprimevano? Si esprimevano con i ricami, con la tessitura, in seguito cominciarono a fare delle miniature e soltanto nel 500, quando comincia la riproduzionistica, ovvero quell'arte che consentiva di riprodurre le opere della grande pittura per farle circolare, cominciano a prendere in mano il bulino. E dove lo prendono? Nei conventi, dove a preferenza stavano, perché o erano mogli di artisti o figlie di artisti, per cui già in qualche modo frequentavano degli atelier, oppure l'unico posto era il convento. Tra l'altro molto divertente, perché Savonarola era molto incline a far lavorare le donne in convento, a lavorare in ambito artistico, e ci sono anche lì figure di spicco, per cui io sono andata incontro a una serie di storie, una più affascinante dell'altra, che testimoniano questa grande cancellazione del contributo femminile all'illustrazione. Però sei arrivata alla fine della tua opera, sei arrivata a conclusione. Allora, la fine della mia opera è segnata dal fatto di avere finalmente, io mi ero data un termine, un 110 immagini da distribuire nei secoli fino ad oggi. Selezione durissima, perché così vorresti metterle tutte, però hai dei doveri di rappresentatività, di importanza, eccetera, per cui alla fine sono diventate 111. Una volta scelte le 111, ho risistemato il mio indice e ho cominciato a scrivere. Adesso dovrei essere quasi alla fine. Camminavano tra i sassi, sotto il sole contro il vento, in un giorno senza tempo, il gigante e la bambina, il gigante e la bambina, il gigante e la bambina. Camminavano tra i sassi, sotto il sole contro il vento. Ringraziamo Paolo Palottino, che in due puntate ci ha raccontato l'universo sconosciuto del femminile all'interno della redazione del Pioniere. Ed entriamo invece in uno dei grandi personaggi del fumetto italiano ed internazionale. Parliamo di Ugo Pratt, quello di Corto Maltese, riminese ma comunque cresciuto a Venezia all'interno di una famiglia militare, quindi ha conosciuto anche l'impero italiano. Nei suoi fumetti infatti si ritrova sia l'elemento militare ma anche quello della simpatia verso i nativi. Nel dopoguerra comincia la sua attività di illustratore fino a creare un personaggio asso, che è il suo suo primo vero eroe in balloon, ma la sua vicenda artistica più conosciuta sicuramente comincia in Argentina. Di qui in avanti cominciamo con un racconto a più voci che vede innanzitutto Patrizia Zanotti, che fu una disegnatrice, collaboratrice dello stesso Pratt, nonché curatrice dell'opera Pratt, più altri personaggi che concorreranno a questa narrazione: Laura Scarpa, Stefano Babini, fumettisti, Luca Raffaele, giornalista, Daniele Barbieri, semiologo, e Graziano Frediani, scrittore. Pratt nel 1947 parte per l'Argentina con Faustinelli e arriva a Buenos Aires, arriva con un contratto di lavoro e quindi con la possibilità di trasformare veramente la sua passione in un vero e proprio lavoro che lo possa mantenere. In Italia non venivano neanche messe le firme degli autori, o quasi, e invece lì gli autori vengono già presentati come divi. La grande capacità di sceneggiatura di Oester veniva dal fatto di raccontare anche solo in 7 pagine tutta un'intera storia. E quindi la sintesi era una qualità veramente importante nella narrazione, e Pratt è la prima cosa che capisce, che acquisisce, cioè quello di riuscire in poche pagine a definire un carattere, a definire una storia, a immettersi in un ambiente, per cui lui, quando poi diventa autore, in qualche modo alleggerisce molto il testo, alleggerisce molto la narrazione, perché lo trasforma in disegno, cioè tutto quello che prima veniva descritto in questi grandi quadrati, didascalie sopra le vignette, in realtà Pratt elimina, proprio perché rende la narrazione più dinamica, più avventurosa. E infatti la sua prima storia completa, cioè anche sceneggiata da lui, che se non sbaglio è Anna nella giungla, sul finire degli anni 50, mostra finalmente la capacità di un fumettista che disegna ma anche racconta. Pratt in Argentina scrive Anna nella giungla, basata sui racconti di Chino e Franco, e Wheeling. Queste due storie, in qualche modo, soprattutto Wheeling, rappresentano il salto da, diciamo così, da disegnatore ad autore completo. E poi, dal punto di vista grafico, parte tutto quanto da lì. Il Pratt moderno parte da Wheeling. Negli acquerelli e nelle chine, in questo bianco e nero netto, non preciso, ma impressionista, però efficacissimo, io ritrovo i colori della foresta, seppur nel bianco e nero, se non è grandezza questa. Ma arriva la crisi in Argentina e quindi Pratt è costretto a tornare in Italia, quindi andrà in Inghilterra, dovrà anche una notevole remunerazione, ma per fare fumetti scadenti, salvo poi tornare in Italia e trovare dunque la celebrità definitiva. Finalmente, cosa succede in Italia? Succede che il Corriere dei Piccoli cambia linea editoriale e nei primissimi anni 60 passa dalla convenzione delle rimette, che il Corriere dei Piccoli era ormai l'unico giornale a fumetti che ancora pubblicasse i fumetti con le rimette, passa da questo a diventare un contenitore di proposte di grande qualità, spesso ma non solo di origine francese, e con una grande attenzione a giovani autori di qualità italiani. Sul Corriere dei Piccoli di quegli anni lavorano Sergio Toppi, lavora Dino Battaglia, e ci lavora anche Pratt. Ritorna a essere disegnatore, quindi, con degli sceneggiatori che gli davano soprattutto delle riduzioni dei grandi classici, e quindi lui al Corriere dei Piccoli si trova un po' stretto. Ciò nonostante nascono storie fantastiche, disegna L'Isola del Tesoro, Il ragazzo rapito, delle riduzioni di Stevenson, quindi il suo grande mito della letteratura. Poi nascono storie come Capitan Cormoran, cambia tecnica, acquisisce una tecnica molto di pennino, proprio per ricordare le vecchie illustrazioni dei libri che aveva visto da piccolo. La produzione è comunque intensa e di grandissima qualità, però lui è in sofferenza come autore. Pratt nel 67 sta lavorando sempre al Corriere dei Piccoli e ha a Venezia la visita di un imprenditore che costruisce case a Genova, appassionato però di fumetti. Ha conosciuto Pratt attraverso i suoi lavori dai giornali argentini e quindi lo va a trovare. Lorenzo Ibaldi era un appassionato di fumetti che aveva tanti soldi. Come un magnate del Rinascimento, mise a disposizione una parte della propria fortuna per realizzare un'opera a fumetti, lasciando libero l'autore e non solo, poi lasciandogli anche le tavole originali e i diritti di pubblicazione. L'editore Ibaldi gli fa una proposta, gli propone di dargli una rivista con cui Pratt può fare quello che gli pare. La può fare da solo, può chiamare degli altri, basta che la faccia lui. E così nasce Sergente Kirk. Il titolo riprende il nome di uno dei personaggi di Pratt, quello che aveva fatto in Argentina con Oesterheld. E quindi su Sergente Kirk Pratt ripubblica dei materiali che aveva già pubblicato e realizzato per l'Argentina, chiama i suoi amici, per esempio Battaglia, pubblica le storie di Caniff come suo riferimento, cioè dà spazio non solo a se stesso ma anche al modo di fare fumetto che sta attorno a lui. Sul primo numero di Sergeant Kirk nascono le prime pagine della Ballata del Mare Salato e quindi appare Corto Maltese per la prima volta. Corto Maltese appartiene al genere dell'avventura a sfondo esotico, dell'avventura di viaggio. Un viaggio che non ha solamente il mare come suo obiettivo, come scenario, ma ha la scoperta del mondo in un momento storico in cui ci sono ancora delle parti del mondo da scoprire. Corto Maltese è una strana figura di avventuriero. Le sue avventure si svolgono tra gli anni 10 e gli anni 20 del Novecento. È un marinaio, percorre varie situazioni geografiche, lo troviamo nel Pacifico. Poi mano a mano che le storie continuano diventa sempre più terrestre, cioè abbandona un pochino la sua nave, la sua barca, e quindi lo troviamo in Siberia, lo troviamo sui treni. Ha tutto un percorso che parte da Rodi e arriva a Samarcanda, percorre quelli che sono un po' anche le zone geografiche e politiche di quegli anni. Quello che trova Corto Maltese è sempre una realtà anche storica, una realtà culturale, persone di un altro mondo che a lui non fanno paura e di cui diventa anche complice durante i suoi viaggi. Io penso che Corto rappresenti proprio la possibilità oggi di seguire la curiosità, di seguire la voglia di conoscere, di approfondire, ma soprattutto di non giudicare, questa grande apertura verso l'altro. Corto Maltese rappresenta la nobiltà dell'uomo in qualche maniera. In effetti lui passa attraverso delle situazioni storiche senza mai esserne davvero il protagonista. Non è mai quello che uccide un re o che porta avanti una rivoluzione. È un personaggio apolide, un personaggio che non difende nessuna bandiera in particolare, che non sente una patria, perché si può adeguare di volta in volta, in fondo l'unica patria è il suo stesso animo. È un uomo che vuole fuggire lontano dal grigiore della società e allora ha capito che il modo migliore è buttarsi sul mare. Non a caso nel 1967, quando è stata pubblicata in Italia per la prima volta, la storia corale a cui lui appare, Una ballata del mare salato, lo vede arrivare legato su una zattera, coperto di salsedine, bruciato dal sole, affamato. La ballata del mare salato fa la sua primissima apparizione Corto Maltese, non in maniera trionfante come si potrebbe immaginare per un personaggio dei fumetti che ha avuto così tanto successo, ma arriva in maniera piuttosto dimessa, perché il suo amico, fra virgolette, Rasputin, lo trova al largo dell'oceano legato su una zattera, sporco, la barba lunga, presenta come un personaggio di spaghetti western, ed è un omaggio a questo film con John Wayne che si chiama La strega rossa. Una storia che non ha un solo protagonista, ha un gruppo di protagonisti, perché Corto Maltese non è il protagonista, anche se progressivamente si impone come il personaggio più simpatico al pubblico, ma solo uno dei personaggi centrali di questa saga, che va avanti per diversi anni. Ha